ti ha fatto benissimo. Quindi mi sto avvertendo, sta andando a casa, dai. E ci sei, ti prendo a casa dopo. Gab, ma quanto il segnale lì alla Feroce? Sto ok, tanto quando scala qua. Gab, già va bene, dai. Già va bene. C'era un problema sull'antenna, c'era, ma adesso adesso sicuramente apre. La modulazione va bene adesso. Ok. Se uno lavora. Ho detto la modulazione è pompa. Sì, sì, la tua, questa la tua. Allora già funziona tutto bene, adesso vedo che il lago sta sbattendo anche forte. Prima non era così, cazzarola. No, tu non ci crederai mai cosa ho fatto stamattina. Le bestemmie che ho mandato. Faccio entrato, ha giocato il BL, tutto bello, vulcanizzato, bello, pronto a piazza sopra. E non sta giù il marinotto, ma la cavità. La massa di nevaria. Purtroppo succede, dai, adesso vado via, riprendo la casa dopo, ciao. Ehi, a capo, ci sentiamo lui. Ci sei? Allora, attenzione Luca, ci sei? Attenzione Luca, ci sei sul canale? Allora. Il progetto S7000 è sbagliato, stava una rosa e si pensa già alla monoposto 2022. Se da un lato... sopra sul tetto che dentro si muoveva, capito? Ahia. Andava. Ecco qua, allora. Qui come devo portare. Come si dice? Devo portare la dea a farla sterilizzare lì alle cliniche. Alle cliniche dove? Universitarie lì a Coso, a Montalepre, là. Lì si porta il cane. Sì. Ecco, ma la popolazione è più forte di quella di ieri, no? Ma va bene, Andrew. Cappa, dai. No, la facilizzare e portare la razza. Alla pupa. Andrew. Allora sono più tranquillo. Lo so, che non c'è coppia con gli altri cagnetti. Esatto. Poverina anche lì. Io sono più tranquillo, dai. Nel caso che scappa. Può capitare. Adesso voglio fare una prova ad alta potenza, voglio provare. Adesso ho cambiato tutto, ho rigenerato tutto, voglio fare una prova del genere a vedere come. Si sta andando. Sta andando bene. Andiamo bene, andiamo. Che? Andiamo bene, andiamo. Che? Bobo. E sto andando al video, tu. Come se la fanno in parascopia, ottica così giamma. Tre buchi. Aspetta. Santa Corsetta di Rosso. È un gioco già. Andiamo bene, andiamo Luca, bobo. Andiamo bene, andiamo, bobo. Ma guarda a vedere com'è Maria adesso. 9:15, Anto. Cappa, già sta andando, vai. Allora per mercati 10 minuti, ecco lo spengo. No, perché ho fatto delle modifiche, ho fatto. hai fatto bene. Io sempre Santiago 5 sono, sì. Sei quasi 9:20. Andiamo, beh, andiamo. Va bene, dai, non so, sto per salutare. Ciao, ciao Luca. A domani, ciao a tutti. Ciao, ciao Mari. No. Ci risentiamo. Ciao Mari, alla prossima. Ciao Luca, ciao. Aspetta, stavo parlando di paroscopia. Paroscopia, come si dice? È un cane gioco, io. Ah, la paroscopia è un cane femmina. Con la paroscopia è meglio, le fanno tre buchi, invece di farli un taglio, capito, bucani l'utero. Eh beh, forse sarà meglio così. E te sa che lo può tenere, se tu che ne sopia. Allora, quando sterilizzare il cane femmina? Sterilizzare il cane a che età? A che età e perché? Mia madre è meglio a sterilizzare domani. Poi sicuramente dovrà prendere medicinali anche. Antifiammatorio, antidolorifico e antifiammatorio. E cosa stai usando? Quello tuo? Il coso. Alla 87 sto utilizzando. Sì, sì, alla grande. Gappa, adesso faccio un altro paio di passaggi, perché stavo facendo una pressione, andava tutto bene, e poi ritorno all'altro che è più. Gappa, sto usando un po' di potenza, ma come mi cagli un poco. Beh, anche quello ha bisogno, mi fanno scaldare. Andiamo. Ma quando cagli troppo questa cosa? C'è un bel programma, Anto. Italia 1, buoni e cattivi. Deve essere molto bello. Ciao, ti chiedi per disperse, no? No. No, buoni e cattivi, no, si diventa. E detto che sono successe a Napoli, capito, un ragazzino che ha tentato di fare una rapina, l'hanno sparata ed è morto, capito? Cose così, cose di mafia, là. Adesso sono belli da vedere anche quelli. Va, detto. E si va. Gente morta, sparata, in terra. Roma non mi ritorna più la freccia indietro adesso. Cazzarola. Ora! Buia! Cos'è, a fondo scala a casa tua? Sì. Cappa. Sto spingendo un po', Sì, si fondo scala, sì. Cappa, sto spingendo un bel po', sto spingendo. E adesso mi lo spengo, perché sennò non finisce un calore, mamma mia. Devo provare l'alta potenza, l'alto rendimento. Ok, adesso lo spengo, questo, e via. Ho già saputo che funziona bene. Ora. Tanto, lo spingi dentro, poi sono con l'incinta. Ecco, così va molto meglio così. Che pagato. Prima c'era una tipa, sta cercando un veterinario perché la sua cane è diventato un frassacco nel naso. E quindi? E quindi gli fa un'anestesia e lo leverà, perché deve entrare dal naso, no? Cane da caccia sono, li prendono più di tutti, infatti sta evitando, cioè abbiamo il cane in deposito, sta evitando di portarlo, che siete tra i borassacchi, ha avuto che andare al veterinario. Certo. Poi sono i costicchi un po', Io penso di sì. Ma con un centone. Sì. Invece te se ne vanno a mangiarti, i borassacchi. Ma poi ne ha cazzati. Ce l'ha mangiati perché il cane di Marina purtroppo va a mezzo all'erba e quando se ne va nella sua cuccetta, no? E c'è il... come si chiama? La travessina si ristacca con i denti, li lascia lì. Passa da lì, ha fatto un raus. Infatti ha vomitato, li ho trovati in mezzo al vomito. Ma qua ne ha castrati. Sono pericolosi quelli, mi hanno detto. Fanno un bel danno. Ma adesso bisogna aspettare le piogge, che almeno li toglie. Se cade un casino, ma sono belli, ti fanno compagnia, però guarda, credimi che no, io ho finito con i cani. Hai visto, ma ti sei pigliato un altro. Lo so, io l'ho preso per mamma a fare compagnia, abbiamo mamma con l'iburia. Vabbè, dai. Teniamo anche questa. Facciamo un sacrificio. No, io ho detto di no. No, non va bene qua. Oltretutto la casa è minore, poi noi abbiamo i nostri impegni, no. Anch'io ho i miei impegni, tu. Quindi ce li abbiamo. Preferisco la verità. No, non esce un casino, no. A tenere il cane, no. E poi chi lo porta giù? Cos'è vero? Capo, poi ci vogliono soldi per il veterinario. Devi tenere bene questo cane. La che dura di buttare osso perché ha bisogno. Lui. A me mi piace stare con Simmi, va bene così, li voglio bene, però a me mi piace stare così. Lo so, una spesa, Poi se gli dai da mangiare quello che mangi tu, vabbè, ok. Ma io non gli do da mangiare quello che mangio io e compro le pappette che mangiano i cani. Cappa, sì. E tu è piccolino, Ma i croccantini li mangia? Sì. Comprare quello adatto per lui, quelli piccolini. Ti avvisa a te quando ha bisogno. Di che cosa? Quando deve scendere giù a fare i bisogni. Sì. Pure quello che abbiamo noi. Quando è lo dacce asso. Lo pigli e può far pisciare. Ma vabbè, lì me lo fa notare, non si mette a bagliare. Invece Luna non si metteva vicino alla porta perché voleva uscire. Dove portarla giù, se no te la faccio in casa. Cappa, ma lui è un casino. Cappa, oggi sono combassato, ma ti ho pigliato 2 politi di birra. Ma oggi mi butto solo una lattina a pranzo. La voglio evitare, che su cui diventi una buba. La birra è già usata. Sono combassato un cotantino, ho preso la leva, ma si veda. Se continuo così, tra poco non mi si vede più la bicchieri ora. Dove mai su vizzino un po' pare tu, troppo dozzi, troppo, comunque un bel dozzi, c'è poche parole, deve prendere più posizione, è uno che è un attivitano, cioè molte volte è troppo bravo, Aspetta tu, sono la telefono Maria un attimo. Non ho fame, Mario. Con i biscotti. Andiamo, Mori. Capa. Te lo intendi che è un po' grande, troppo buono, troppo così. Cazzo. Lascia dire che tra Dovito che ha pigliato a fare il bello bruciare. Chi di lui, la mamma, lo zio l'hanno detto lì, avviarsi. Ma chi su Mario? Ha detto avviarsi, Ed non per riuscire. Io non per riuscire. No, non per riuscire di vino. Ah, siamo rimasti dentro sabato, non tu te ne sei andato. Siamo rimasti quasi fino alle 2. C'era Alessia, poi c'era questo tipo, quello col cappellino, poi c'era, chi è che c'era? Valeria, Costantino e cosa, Maria Teresa. Ah, quello col cappellino e cosa, Franco Giuliflui. Te lo conosco, un bel di anni, comunque. Ma qua, minimo, forse 30 anni, forse pure 40, qua. Forse pure 40. Vabbè, no, 40 no, quasi 35 anni, pure lo conosco. Non ho mai visto senza cappellino. Ma è bravo, poverino, cioè non è cattivo, è la verità. Tu chiamane Franco, c'ho il fluido, chiamane. Vabbè, pure io l'ho usato il cappellino, ma... Buonasera. Sono rotto le balle. Gamba. Ma Franco è in gamba però, eh. Che ti mangi il ridito. Io. Casino, c'ho quella di dolce, ma ci mangiato un paio di biscotti. E tanto animali ma ci con la bocca un attimo. Perché sì. No, è un casino. È un casino. Vai, vai. Andiamo, andiamo. Che? Cazzo! Oh Giulia! E così si dice, ma di che ne hai fatto un casino lì, chi si gnognò, chi si brosci? Voi ce la fate? No! Ah, Ma come siamo andati? Siamo andati via l'una e più? Ah, io ne sono andato prima. Cazzo, la giuma non ne può curi i denti anche su. Anche su curi i piccitti. Ah, no, ma sei guati, so. Ah, me devi comandare tu. Oltretutto mi sono un pochettino incazzato anche. Perché dei bizzini. Mi sentite le voci a casa, noi no qui. Cioè fino a una certa ora va bene, ma non di più, cavolo. Scusa, quando vanno andata a fare un bicchiere di troppo, la gente ci rigabbo, li sa fare travaganti. Capa. Però lui lo sai che se io ieri, cioè se io sabato notte mi ero opposto, mi ero rompito di balle, se c'è un casino, perché gli aveva detto così, facciamo la pattuglia. Cioè gli aveva già fatto il bittini minore a chi sola. A chi sola di notte, alla mamma se l'avrebbero mangiata viva. Me. Vabbè, fottitini, cosa la fai in chi? Poi è un casino, li sa che non lo cade. Poi ti benietto, ti viene. Quindi te cadono, devo rubare ma salsa di cattone, io conosco pure niente, fare da bravo con me, e tutti devono fare da bravo con me. Ma con me già, voi già si comportano abbastanza bene, perché cioè, se cambio idea poi è un casino. Stai metà, ma attaccando un tipo io. E tu così, poi lo conosco anche, il cognato di Mirko, con mio amico, poi ex cognato. E tu sei incazzato così, a che problemi vai? C'è subito da tagliare. Ah, regizzo. Sono pelato. Ma cacchi tu con le piccite? No, il tuo pelato, lui è sapendo sempre, si chiama Antonio. Ah, Antonio, cavolo, non è veramente buffonello. Antonio già non so curare. E a Kenza? Super. Ma già sono appiglio, ma giù di... attaccavo un macco, sono un macco e buono. Te l'ha giunto cursino, te l'ha giunto... ma infatti, c'è la saliente. Sì. Prueto fate... fate tanto, dove ti fa casino in occhio, però che ando imbriaco già non per il cattolo. Sì, a so che fa. Quello che so l'abbiamo eliminato da inchive. A chi anda in inchive, la caro debito, dopo ce ne andrà a piccoli. E anche non lo so. Ma già ve l'ha giocata la battuta domenica. Ah, ti credo che non ve l'ha giudito, e no, che va niente, che bene. Vedi, la caro conto, da cui si ne andano a cirughe. Io sono sempre stato curidinata, vedo. E anche io no. Bruianto. Non insegno roba buffono. Io quindi è pago subito burro. Ah, io vado sempre bagato, vado. Cioè, e quando vado tutto per la vescia, a città io canto di deputato, ma non è manco, sto cucciando a sciuvarà a girare il cattolo, io canto di deputato. Dimmi, lo intendi? Sì. Non li spendo molti, poi già li spendo. Allora, cioè, quando uno paga, signori, cioè, non deve dire nulla proprio. Beh, certo, così si fa. Non ha più problemi, grazie a Dio. Guarda, non è che navigo nell'oro, però ridi navigaggio in busciaccala. Perché, cioè, se non posso andare di penna, rimando di sabato, però quando ando, mi... non mi puoi dire, ma non mi hai pagato, cosa non ti ho pagato io? Vai, ci mi auguro. La a me non mani mai di tubà e non si deve nemmeno permettere. Lo so. Io lo so, Anto. Vabbè. Chi se ne frega. E se te lo andava a crocco? Mai mi sono permesso. Sì, se uno gatto magari non vale di una ciammaglia in questo momento, vabbè, all'attuino, però te l'hai sempre pagato. Cioè magari io faccio 50 euro, tu non vale un resto, però alla fin fine, magari hanno in chi me lo chiamo, l'hai sempre pagato. E così bisogna fare, Gatta. Ah, io sono una persona seria, cioè non so con un carriaggio. Quando avevo fatto questa bestia che gli ho dato le luci, gli ho dato col cuore, gli ho dato perché l'ho fatto anche per quella cosa che loro hanno detto che vabbè, ha già fatto grugori, non mi interessava nulla, compreso. E beh, è così, altro, è così. Un casino, ecco, chi vaietti andrà a crocco. Non mi piace, preferisco stare a casa. E no, non mi piacciono queste cose. Grazie a Dio. E anche a me piace. Che fa? Non è che ho cugnati da Edo, no? E io quando ci posso andare ci vado. Gaffa gaffa. Addio. Così è. Finché vabbè uno lo puoi capire che non c'ha soldi, va bene, ma niente, ne abusa, capito? Cioè ne approfitta, non abusa, ne approfitta, che vedi che magari gli offri a me, ne mi si piglia la mano, e così stai in chiusa, c'è la rombata, guarda, c'è la viuta, vedi a te e ci stai di pagare. Allora, a me mi ha fatto un po' gare di rompere di cattolo, chi su grasso, chi su robusto a me. Questo deve venire oggi con la via a crocco. Ma che è su robusto? Quello codino? No. Ah, ho capito. Io ve l'ho già detto. Che ti dici di siete in busciacca a me? E raggio sempre il borso tanto la banca puro. E non ha di là chi sono, infatti da un po' che non lo becco. Se no non so chi siate i due, me. Mamma mia. Dici, ma te sì. Chi su. Non si chiama Mario e Alessandra. Chi si burro già sono un po' caretto. Non sono più visti quelli. Ma da un po' di giorni che non li vedo. Non sono più visti, ma siamo neanche buffo. Allora, se l'altra volta ne pigliato una caccia di birra, magari non ne ha pagato, anche per un compleanno della compagna. Ma tanti anni? Quanti anni c'hanno? Ma lui penso più di 50 anni c'ha. Forse va pure 60 anni e da forse un poco più minore. Ma era un capo, però non è che funziona assai, no? Ma vedi che c'è 60 anni, i suoi più minori di me puro. Ma domani? Avrà 45 anni, neanche ce li ha. Mario! Mario sarà avrà l'età mia, 45-46 anni. Ma sei buffonente, è più umano di te di un bel. Si chiama Mario? Non me lo ricordo. No, lui come si chiama? Mario? Io. Non lo so. Non lo sappiamo. E dai, Alessandra Cara. Io già lo diciamo, cara e barato. Ma si chiama Cara di cognome? Lei sì. Esatto, lei sì. Lei, diciamo, ce li ha... È più piccola di me. Non lo so, ma lui più di 50 anni ce li ha. Secondo me no. A Viraggia. E tu già quanti anni fa Franco Giurifloi? No. 65 anni fa me. Cazzo. Sembra più piccolo, sembra, no? Sì. Non lui. Dovrei guardare, dovrei. Ingegnere con... Lascia vedere. Se lo trovo. No, su Facebook non c'è. Ed non va. No, lei. Boh. Vedi a me. A me. Chi è Mario? Io sono vaccinato, c'è scritto. Non Mario, non lo so. Si chiama Alessandra Cara. là così. Ehi, calmato. Ma cosa è stato a farla? Non lo so. Con quella maschera. A me già c'è l'amicizia. Lui è Mario Masia, Oh, lo fa cercare su, aspetta. Da computer. Da 71 è lui. Hai visto, vabbè, mi sono detto di poco, Ma tu avevi 60 anni. No, non ce li ha 60 anni. E 71 c'ha 50 anni. No. Aspetta, 50. Non me lo ricordavo, si chiamava Masia, la verità. Sono una gantana, gantendimi. No, del 70, Non dice, ma 70. 52, 51 anni. Nell'altro segnava 71, vabbè. Perché ha due profili, c'ha. Per la prima volta che l'avevo visto io. Cazzo, dove posso così? Marago Santino, cazzo di inteso cantare, se vuoi rimanere in capo. Cazzo Maria, coso, John Leno Maria. E ma c'è lì non c'è niente, non sa di che anno è. Ma su per giù sarà così. Pensavo la mia età, là. Comunque si avvicina molto. Il 71. Anzi, vabbè, fa 64 io e lui 70. 4 anni di differenza ci sono. Su per giù. Il cazzo è tu 70. Ah, 60 anni. No, io pensavo che ce li aveva, ma non è così. Non me lo ricordavo adesso. Vabbè, se vuoi fare. Nicchi nicchi. Andiamo, andiamo. Anche così guaccio. Se non c'era bisognava inventarlo. Cazzo, abbiamo la bicicletta mia. Cazzo, come sta a far giri, cazzo. Un pazzo, un bambino piccolo, non l'ha mai visto. E va. Ehi. Ma dove abita? Sei vecchio? No. Ma tantino. Ciao, chi si? Ehi, chi zona sta bene? Però un po' strani, la verità ti dico, Ti dico la verità, sono un pochettino strani sono. No, che no, secondo me è un bel divorzio. Adesso qua non te lo posso spiegare, però un bel di volte sto allucinato, cioè. Io sei qua, sono fatto in piccio. Qualche cosa. Anto. Io mi niente sta in giro, a voglia, c'era ci voglio un messaggio, no? Ecco qua. Avevo spento il telefono. Ma veramente pensavo fosse la mia età, vabbè, comunque siamo lì, si avvicina molto, non è molto distante. Non so. Annebbiate, lì quando comincia è un pochettino rompiscatole. Ma si può più freddo l'estate. No, ma che quando comincia a rompere, l'altro giorno c'è l'attacca in deguno tra la sala. Perché dove rompi il mio, cioè stavo succedendo un casino. Purtroppo la gente va lì a rompere i coglioni. Pure lei già, da c'è caratterino suo, va. A me mi pare, sarà la mia impressione. Un po' di volte fanno in gloria, va. Mi ha avviso una che va che cosa di strano. Ah, tu dici che fa uso. Sì. Purtroppo sì. Vabbè. Che tu vai? Che non la voce per il gioco a brindare a due, che è nell'altro mondo.